Rassegna stampa Europa. Buongiorno e buon sabato da Giulia Crivelli. Siamo arrivati anche alla fine di febbraio, siamo arrivati già alla fine di febbraio, e però anche questa settimana, come nelle scorse, direi di parlare un pochino di Grecia, perché si va delineando questo accordo, le posizioni si sono, come in tanti auspicavano, un po' ammorbidite, e però qualunque accordo poi sarà definitivo, sarà sicuramente un accordo importante che potrà essere anche un esempio per eventuali altre crisi di questo genere all'interno dell'Unione Europea, da risolvere rigorosamente senza l'uscita, senza sbattere fuori un paese dall'area euro o peggio ancora dall'intera Unione Europea. E allora la Frankfurter Allgemeine Zeitung, che è uno dei quotidiani, come dico sempre, più austeri della Germania, che non fa sconti a nessuno, né ai politici tedeschi né ai politici europei, titolava appunto 4 giorni fa che la Troica è la cosa migliore che potesse capitare alla Grecia. Sapete che invece, naturalmente, se chiedete a Tsipras vi dirà anche sotto tortura che no, invece la Troica è la cosa peggiore che sia capitata alla Grecia. In ogni caso, scrive la Frankfurter Allgemeine Zeitung, i paesi dell'Euro zona avevano creato la Troica, che, lo ricordiamo, è formata da 3 istituzioni, il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Centrale Europea e la Commissione Europea, cioè un po' il governo dell'Unione Europea. Quindi era stata creata nel 2010, nel momento di massima emergenza finanziaria per la Grecia, proprio per gestire questi aiuti che erano necessari per non far fallire il paese. Formata da, appunto, rappresentanti, come abbiamo detto, di Fondo Monetario, Banca Centrale e Commissione, la Troica sarebbe dovuta diventare un governo ausiliare di quello greco e una corte dei conti con un diritto di intervento permanente. Ma il nome di Troica avrebbe dovuto cambiare. Anche il presidente della Commissione Europea precedente e anche quello attuale, Jean-Claude Juncker, dice di essere a favore perché Bruxelles non apprezza il coinvolgimento del Fondo Monetario Internazionale, che naturalmente delle 3 istituzioni è quella appunto non strettamente europea. E la BCE non è mai stata convinta del suo ruolo. Quello che colpisce però, scrive la Faz, è che nessuno sa davvero come si sia di fatto delineato il ruolo della Troica in questi ormai quasi 5 anni, e in ogni caso però è stata utile per tenere comunque, diciamo, la barra dritta, cioè la necessità che gli aiuti finanziari poi fossero comunque sempre legati a un piano di restituzione e soprattutto a quelle riforme strutturali che purtroppo la Grecia in realtà in questi anni non ha ancora fatto. Perciò, come si dice spesso, i soldi sono arrivati in Grecia ma non sono arrivati alle persone che ne avevano più bisogno, cioè le persone veramente impoverite dalla crisi senza averne gravi colpe, perché le gravi colpe sono per esempio quelle dei grandi evasori o dei corrotti. Il livello di corruzione in Grecia e di evasione in Grecia è ancora peggiore di quello dell'Italia, ricordiamolo. Passiamo un attimo, ma poi torneremo sulla Grecia, visto che ho citato l'Italia, a un articolo apparso sulle Figaro che scrive per una volta bene di noi. Sapete che i francesi sono molto legati al loro cinema, continuano ad avere un'industria cinematografica molto fiorente, si rifiutano spesso di tradurre, di doppiare i film stranieri, mettono semplicemente i sottotitoli in francese e lì, perché non vogliono essere, insomma, colonizzati soprattutto dal cinema americano, quindi sono molto gelosi della loro cinematografia, molto critici verso quella degli altri. E questa volta Le Figaro scrive: il cinema italiano tra tutti quelli dell'Europa è in grande forma. E naturalmente l'elenco parte un po' dalla grande bellezza di Sorrentino, che lo scorso anno ha vinto l'Oscar, ma vengono citati anche talenti meno noti, perché poi sapete quanti francesi amino Nanni Moretti, per esempio. Però in questo caso viene citato anche Alice Rohrwacher, che è la sorella di Alba Rohrwacher. Alba è l'attrice, Alice è la regista. E poi anche Anime Nere di Francesco Munzi, un bellissimo film uscito l'anno scorso sull'Andrangheta, sulla Calabria. E ma anche cose più leggere, come per esempio Buoni a nulla di Gianni Di Gregorio, che ricorderete è lo stesso regista e attore di Pranzo di Ferragosto. C'è anche un altro accenno sui giornali francesi al cinema italiano, perché da mercoledì scorso, il 25 febbraio, fino, pensate, al 17 aprile, la Cinémathèque Française, che è l'istituzione più importante dedicata al cinema di Parigi, ha un'amplissima e molto elaborata, molto apprezzata anche dalla figlia, rassegna su Ermanno Olmi, che è partita con Torneranno i prati, che è l'ultimo film di Ermanno Olmi sui massacri della Seconda Guerra Mondiale, sui massacri in trincea della Seconda Guerra Mondiale, ma in realtà comprende anche tantissimi altri film. torniamo a un'altra questione europea importantissima che coinvolge anche in questo caso un'italiana, per la precisione, che è Francesca Mogherini, che sapete è l'alto rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri, cioè tradotto il ministro dell'Unione Europea per gli esteri, anche se sappiamo che in realtà poi non è ancora l'istituzione, l'Unione Europea non si è ancora data una riforma in grado di dare a questa figura, cioè all'alto rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri, il ruolo e il potere di un ministro degli esteri di un paese, tant'è che avete visto che con Putin sono andati a negoziare Angela Merkel e François Hollande. In ogni caso, Federica Mogherini ha rilasciato un'intervista al Wall Street Journal dove parla dell'accordo sul programma nucleare iraniano tra Teheran e il cosiddetto gruppo 5+1, che è fatto da Stati Uniti, Cina, Russia, Regno Unito, Germania e Francia. Secondo la Mogherini, questo accordo di cui si parla da tantissimi anni e che servirebbe finalmente a spianare le relazioni, a rendere più diplomatiche le relazioni tra Teheran, tra l'Iran e l'Occidente, soprattutto tra Teheran, l'Unione Europea e gli Stati Uniti, questo accordo si avvicina e i rapporti diplomatici, appunto, secondo la Mogherini, in questo caso potrebbero normalizzarsi. Non tutti però, scrive il Wall Street Journal, che ricordiamo è un quotidiano conservatore ma soprattutto ha posizioni da sempre molto critiche verso la maggior parte dei paesi del Medio Oriente, l'Iran e anche lo Stato palestinese, che non c'è perché gli Stati Uniti non l'hanno mai riconosciuto, ed è invece da sempre un forte sostenitore di Israele e del bisogno di Israele di garantire la sua sicurezza anche contro la minaccia nucleare che viene dall'Iran. E quindi il Wall Street Journal sottolinea che non tutti in Medio Oriente vedrebbero favorevolmente un ruolo maggiore dell'Iran, che lo ricordiamo è guidato da una maggioranza sciita di musulmani sciiti, mentre per esempio l'Arabia Saudita, che è sunnita, appunto non digerirebbe bene questo maggiore ruolo dell'Iran. Passiamo a un'altra questione di cui si è parlato tanto, che è altrettanto importante, che è quella naturalmente dell'Ucraina. In questo caso dal sito di presseurope.eu, che sapete trovo utilissimo per appunto cercare di monitorare i tanti articoli che appaiono sulla stampa europea, non solo sulle questioni europee, questo articolo è tratto da Der Spiegel, che è uno dei due news magazine tedeschi più importanti insieme a Stern. Il titolo è "Rifugiati in Ucraina, o l'Ucraina ormai in Ucraina c'è un po' una Guantanamo dell'Est". È meno coperta rispetto dai mezzi di informazione rispetto al Mediterraneo, ma l'Ucraina è un importante punto di passaggio verso l'Europa per i rifugiati che fuggono dalle milizie islamiche, soprattutto in Africa orientale. Le condizioni di accoglienza sono indegne, come testimoniano i richiedenti d'asilo. E in questa inchiesta di Der Spiegel, di questo giornalista, sono stati anche intervistati numerosi di questi richiedenti asilo che vengono dalla Somalia o da altri paesi dove la guerra civile ha distrutto le speranze, ma soprattutto ha distrutto qualsiasi possibilità di avere una vita normale. E secondo la Spiegel queste notizie non sono nuove, le ha date anche facendo dei numeri altrettanto impressionanti l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, ma purtroppo forse appunto l'attenzione dei media è spesso altrove. Un'altra notizia che vi segnalo, e torniamo un pochino alla Grecia perché comunque, ripeto, finché non verrà veramente non vedremo tutti questo accordo, forse converrà continuare a ragionare su quello che sta succedendo per raggiungere questo accordo e scongiurare definitivamente l'uscita della Grecia dall'euro e soprattutto dall'Unione Europea. L'Irish Independent, che è un quotidiano irlandese, ha commentato come in fondo la Grecia sia stata tradita dai piccoli paesi, perché alla fine persino l'Irlanda, che in passato aveva avuto a sua volta dei problemi nel negoziare con l'Europa, si è schierata dalla parte della Germania, un po' come se appunto alla fine si sia scelti tutti di non contraddire la Germania, che è sicuramente alla posizione più forte in questo momento, e secondo l'Irish Independent non è stata una buona cosa. Un altro articolo interessante sulla Grecia lo trovate anche in questo caso sulla Zeit, che è il settimanale tedesco che esce la domenica, guidato da Di Lorenzo, che sapete è un giornalista per metà italiano e per metà tedesco. In questo caso di nuovo si analizza un pochino il personaggio di Tsipras, che forse un po' come il nostro Matteo Renzi si è rivelato un abilissimo politico, perché come ricordiamo tutti all'indomani della grande vittoria di Syriza, il suo partito, che significa sinistra radicale, aveva promesso sfracelli e grandi ribaltamenti di tavoli in sede europea. In realtà alcuni nomi degli accordi sono stati cambiati, anche la Troica non viene più tanto nominata, però in realtà ad alcune richieste dell'Unione Europea e della Germania in particolare, Tsipras ha assolutamente detto di sì, cercando poi di venderle nel migliore modo possibile a chi lo aveva votato, pensando magari che davvero fosse possibile strappare un accordo molto più favorevole alla Grecia, che invece in molti credevano non sarebbe stato possibile. Era l'ultima segnalazione, vi auguro ancora un buon sabato, domani è il 1° marzo, ci si avvicina la primavera, e allora buona primavera a tutti fin da ora. Rassegna Stampa Europa, in collaborazione con Euronet Plus.